falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di arte, per la precisione di arte vivente, perché il protagonista della nostra puntata è un uomo che è stato capace di trasformare anche le cose più semplici e banali in vere e proprie opere d'arte universalmente riconosciute come tali, ma ha fatto ancora di più, ha saputo modificare se stesso, elaborare la sua persona, la sua mente, la sua immagine, fino a trasformarsi in una vera e propria opera d'arte vivente. E ancora oggi, pur essendo morto da molti anni, continua a essere considerato un'opera d'arte che vive attraverso le sue produzioni. Oggi dedichiamo la nostra puntata al genio della pop art, Andy Warhol. Di lui hanno scritto i più grandi critici, a lui sono state dedicate mostre in ogni parte del mondo. Esiste un museo solo delle sue opere, ma forse dell'uomo Andy Warhol c'è ancora più da raccontare, perché è stato lui stesso a dare un suo giudizio molto profondo. I've always had a conflict because I'm shy. Sono sempre stato in conflitto con me stesso, perché sono timido. Eppure mi piace prendermi molto spazio personale. Mamma mi diceva sempre, non essere insistente, ma fa sapere a tutti che ci sei. Volevo prendermi più spazio di quello che ottenevo, ma ero troppo timido per sapere cosa farmene dell'attenzione che ne avrei ricavato. In questa frase c'è la chiave del perenne conflitto con se stesso, timido ma desideroso di attenzione, incapace di gestire la popolarità che lui desidera ardentemente. Andy Warhol si definisce così. È una pop star che si nasconde dietro a una parrucca bionda, che si crea un'immagine fittizia perché solo con quella riesce ad affrontare il mondo e la trasforma nel suo capolavoro più riuscito. Cercare di capire questo meccanismo che governa la vita di Andy Warhol significa riuscire forse a comprendere lui e la sua opera. Quindi proviamo a capire chi è questo genio che il mondo guarda con ammirazione, ma anche chi è il ragazzo che si nasconde dietro di lui. Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti. Quanto aveva ragione, questa forse è la frase più nota che abbia mai detto Andy Warhol. È un compendio della sua filosofia, del suo pensiero proiettato verso un mondo governato dal consumismo, il consumismo dei sentimenti anche, insomma una frase profetica. Difficile dire se immaginava che nel suo futuro ci sarebbe stato molto di più che un solo quarto d'ora di notorietà. Di certo non se l'aspettava quando era un ragazzino timido e impacciato. Il suo vero nome è Andrew Warhol. Nasce a Pittsburgh in Pennsylvania il 6 agosto 1928 da genitori emigranti cecoslovachi di etnia rutena. È il più giovane di tre fratelli, il prediletto della mamma, e vedremo quale ruolo avrà la mamma nella vita di Andy Warhol. Lui è dislessico, di salute cagionevole, si ammala del ballo di San Vito, una patologia del sistema nervoso che provoca movimenti continui e inconsulti, che gli lascia anche una antiestetica pigmentazione della pelle. Ha rapporti molto difficili con i suoi coetanei, come ricorda proprio il fratello maggiore Paul. I took him into school the first day and waited for him and Andy didn't come out here. Il primo giorno di scuola lo accompagnai e poi lo aspettai fuori, ma alla fine delle lezioni lui non uscì. Non capivo cosa potesse essergli capitato. Poi seppi che era stato picchiato da una bambina. Tornò a casa di corsa. Dopo questo episodio aveva paura della scuola. Piangeva, faceva i capricci, urlava. Non voleva più andarci. Sviluppò poi un disturbo nervoso, il ballo di San Vito. Aveva continui tic. Non riusciva a star fermo con le mani. just moving his hands. And when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. Pieno di tic, pallido e maciato al limite dell'albinismo, Andy non riesce a rapportarsi con il mondo esterno, sviluppa una ipocondria grave che si trascinerà per tutta la vita. A causa del ballo di San Vito passa quasi tutto il suo ottavo anno a letto senza andare a scuola e senza praticamente uscire mai. La mamma, per distrarlo, gli compra in continuazione album da colorare e pastelli di cera. My father was away a lot on business trips. Mio padre era spesso lontano da casa. Viaggiava per lavoro. Lavorava per le miniere di carbone. Non lo vedevo spesso. Mia madre leggeva per me con il suo accento cecoslovacco. Faceva del suo meglio. E io le dicevo sempre grazie, mamma, quando aveva finito di leggermi Dick Tracy. Anche se non avevo capito una parola, mi dava un dolcetto ogni volta che finivo di colorare una pagina del mio libro. Questo anno vissuto in quasi totale isolamento a colorare gli album è di vitale importanza nello sviluppo del futuro artista Andy Warhol, come lui stesso avrà modo di raccontare in più occasioni, perché in questo periodo sviluppa una mania alla quale si dedica con particolare fervore. Inizia a collezionare le foto autografate delle star del cinema. Nell'Andy Warhol Museum di Pittsburgh, che apre i battenti nel 94 e che da allora raccoglie centinaia di migliaia di oggetti anche di uso comune come vestiti, collezioni, opere dell'artista, in questo museo è conservato un album datato 1940 che contiene un numero enorme di foto di attori di Hollywood con la dedica autografa a Andrew Warhol. Ci sono Mae West, Eleanor Powell, Annie Miller. Lui ha una passione morbosa per questi personaggi, e specialmente i bambini prodigio come Shirley Temple, Judy Garland, Mickey Rooney rappresentano le essenza stessa della fama alla quale lui aspira fin da piccolo. Negli anni 70 questa sua passione per le foto di gente famosa riaffiorerà. Andy Warhol realizzerà un numero impressionante di ritratti di divi di Hollywood, di personaggi del jet set, come ricorda il direttore dell'Andy Warhol Museum, Tom Sokolowski. Warhol sarà ricordato come il creatore del più straordinario bestiario del XX secolo. Realizzò circa 500 provini e 600 ritratti. Stiamo parlando di 1100 persone, e sono tante. Andrew Warhol, il futuro Andy Warhol, cresce, i suoi tic si affievoliscono per le cure amorevoli della madre, lui riprende una vita quasi normale, anche se la paura dei medici e delle malattie non se la toglierà mai più. I suoi problemi relazionali vanno a sommarsi a una omosessualità latente e per il momento celata. Dopo il liceo, Andy studia grafica pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology, dove viene anche nominato art director del giornale degli studenti. Si laurea nel 49 e decide immediatamente di tentare la fortuna come illustratore pubblicitario nella grande mela. Va a New York e la magica New York dei primi anni 50 attende l'arrivo di colui che la conquisterà con il suo stile, il suo glamour e la sua inconfondibile arte. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1949 a New York, dove il nostro protagonista di oggi, Andy Warhol, a 21 anni, si è appena trasferito. Si chiama ancora Andrew Warhol e vuole diventare un artista pubblicitario. Ha molto talento e lo sa, ma al tempo stesso è anche pauroso, insicuro, teme sempre di ammalarsi, chiama la madre perché si trasferisca da lui a occuparsi di quel figlio prediletto e vulnerabile. Il loro è un rapporto molto strano, le poche persone che li frequentano li paragonano alla madre e al figlio del film Psycho. Vito Giallo, che è il primo assistente di Andy Warhol, racconta cose come questa. Una mattina le chiesi: ha dormito bene, signora Warhol? E lei disse: no. Io risposi: oh, mi spiace. E lei: sono stata seduta tutta la notte a guardare Andy dormire. Non aveva chiuso occhio e mi sembrò una cosa molto strana. Decisamente una cosa molto strana. È un rapporto di dipendenza totale sul quale si potrebbero scrivere pagine di psicanalisi a suon di complessi di Edipo non risolti o di altre interpretazioni. Intanto Andy si sente a casa se c'è sua madre e può concentrarsi sul lavoro. Il primo progetto che gli viene commissionato dalla rivista 17 sembra fatto per lui: un articolo da illustrare, e l'articolo parla di allergie, un argomento con il quale lui va a nozze. Praticamente non c'è allergia che prima o poi non abbia avuto. La direttrice della rivista, Joan Fenton, ha il primato di avere tenuto a battesimo il grande Andy Warhol. Lasciò il portfolio con i suoi disegni e quando lo vidi pensai: ho proprio il lavoro per lui. Stavamo preparando una storia sulle allergie. Lui aveva un modo di disegnare discontinuo e strano. Gli detti una doppia pagina da illustrare con tutte le cose che ci fanno starnutire e grattare. E lui capì. And scratch and sneeze and he understood. Beh, Andy è tutto particolare, non solo il suo modo di disegnare. Ha un problema alla pelle evidente, è pallidissimo. Se un raggio di sole lo raggiunge si riempie di macchie rosse, non può esporsi alla luce. È una sorta di novello vampiro che esce solo al calare delle tenebre, aggiungendo fascino e mistero alla sua persona. Tra le sue fobie c'è una che lo assilla terribilmente: il naso. Lo odia il suo naso, lo ritiene troppo grosso, con una forma assurda e sproporzionata rispetto al resto del suo fisico delicato e fragile. Un tempo l'aspetto del mio naso mi dava molto fastidio. Era enorme e sempre rosso. Così decisi di farmelo levigare. Perfino i miei mi chiamavano Andy e Warhol dal naso rosso. Andai da un dottore, ma penso che si prese gioco di me. Lo levigò appena. Quando uscii dall'ospedale di St. Luke, sotto ero lo stesso, ma una benda mi copriva il naso. Il lavoro successivo per Andy è per un calzaturificio, e ancora una volta la sorte è dalla sua parte, perché Andy è un feticista, adora letteralmente le scarpe, ha una predilezione per quelle da donna con il tacco, specialmente da sera, le colleziona per tutta la vita e sono ancora oggi conservate in numerosi contenitori del Andy Warhol Museum a Pittsburgh. Ce ne sono talmente tante che si potrebbe passare intere giornate a guardarle. E le illustrazioni pubblicitarie che Andy realizza per il calzaturificio attirano Arthur e Tenny Edelman, marito e moglie fondatori della Fleming Geoff Leather, che produce pellami esotici. La prima cosa che fece per noi, che volevamo promuovere la pelle di serpente per fare scarpe da donna, fu che prese l'immagine di un serpente e ci disegnò una scarpa. Aveva un modo letterale di affrontare le cose. Se gli dicevi che volevi una scarpa di pelle di serpente, lui ti faceva una scarpa con un serpente nel senso più stretto del termine. Per questo faceva sempre cose fantastiche. Ad un certo punto i rettili sono diventati una specie in via di estinzione e noi siamo rimasti a corto di animali. Allora abbiamo contattato una ditta di vinile per ottenere artificialmente il nostro look e pensammo di chiamare quella linea i falsi genuini. Abbiamo chiamato Andy dicendogli che ci servivano i falsi genuini e lui ci portò un elefante con le strisce di una zebra, un canguro con due corpi e mille altre cose, tutti i falsi genuini. He did everything and everything was it's a genuine fake. I think images are worth repeating, images beaded from a painting. Images taken falsi genuini sono la prima vera espressione artistica di Andy Warhol, che si sente pronto per spiccare il volo, anche se già guadagna quello che vuole. Però abbandona la professione di illustratore, diventa un vero artista a tutti gli effetti. Però deve fare i conti con un paio di cose che nella sua epoca e nell'ambiente in cui si trova non sono l'ideale per diventare quello che vuole lui, perché c'è una corrente di pensiero completamente opposta. Gli artisti dell'espressionismo astratto americano che vanno per la maggiore, come Jackson Pollock o Willem de Kooning, provano semplicemente disgusto per tutto quanto è popolare e commerciale, odiano la pubblicità, anzi ne provano orrore. Sono un gruppo piuttosto coeso di artisti che rigettano tutto quanto sia possibile trovare sugli scaffali di un supermercato, passano le loro giornate a parlare di astrattismo e a conquistare ragazze. Cosa può esserci di più lontano da loro di un pubblicitario per giunta gay? Siamo agli inizi degli anni 60, è partito il germe di una rivoluzione culturale che sta per cambiare tutto, anche nel mondo dell'arte, come spiega il pittore inglese Peter Blake, anticipatore della pop art americana. La pop art cambiò la direzione dell'arte. La si può intendere come si intende la musica pop. Quelle prime cose erano dirette verso lo stesso pubblico che amava le canzoni di Elvis Presley e che avrebbe amato anche un dipinto di Elvis. Fu un rifiuto di tutti i valori accettati dall'arte e una ricerca di nuove vie. Ad esempio, usare i colori primari era una cosa che semplicemente non si faceva. Andy Warhol in questo scenario è perfettamente a suo agio, perché in questo turbine lui è il figlio, ma nello stesso tempo l'artefice. Riproduce su tela le pubblicità che trova sulle riviste, utilizzando un sapiente mix fra le tecniche che lui ben conosce, quelle della pubblicità, e le linee pittoriche in voga in quegli anni. Al centro delle sue tele non ci sono più i paesaggi, i personaggi, le scene di vita, ma neanche le sensazioni che l'astrattismo imperante imporrebbe. Lui costruisce tutto intorno a un semplicissimo prodotto di consumo, una confezione di un cibo, una bevanda che chiunque può comprare per pochi spiccioli in un supermercato. C'è un motivo ben preciso per il quale lo fa, e tra poco scopriremo quale. Stiamo raccontando la storia dell'artista pop più famoso del mondo, una icona dell'arte contemporanea, Andy Warhol. Abbiamo parlato delle sue origini, del rapporto morboso con la madre e di quel tipo di vita che ne fece da un lato un esempio e un'icona e dall'altro un personaggio assolutamente controverso. Lui vive e anticipa i grandi cambiamenti degli anni 60 e con la frase "ognuno ha diritto a un quarto d'ora di celebrità" anticipa anche la società che noi stiamo vivendo, ahimè, sulla nostra pelle. Sono già alcuni anni che in Gran Bretagna, in parallelo con la nascita della pop music, sta esplodendo un nuovo movimento artistico, la pop art. È una forma d'arte popolare che si contrappone all'eccessivo intellettualismo dell'espressionismo astratto, trae ispirazione proprio dalla società dei consumi che contesta. Non è arte del popolo o per il popolo, è arte di massa, è prodotta in serie e in un mondo nuovo e consumistico quest'arte nascente guarda alla pubblicità e agli oggetti quotidiani elevandoli a progetto artistico con una forma di ossessione positiva e di critica che ne fanno un argomento di discussione ancora oggi. Richard Hamilton in Gran Bretagna, Jasper Johns e Robert Rauschenberg in America sono i capi scuola di questa pop art che il giovane Andy Warhol fa immediatamente sua. Il fotografo Duane Michals racconta questo. Mademoiselle Magazine in the early 60s said, All'inizio degli anni 60 la rivista Mademoiselle mi scrisse che stava succedendo qualcosa di nuovo, che stava nascendo la pop art e che avrei dovuto fotografare alcuni esponenti di questa nuova arte. Fra loro c'era Andy Warhol. Andai nel suo studio ed era lì ad ascoltare musica rock. Era vestito di nero, indossava i jeans e la stanza era piena di dipinti dei barattoli di zuppa Campbell. Campbell soup cans, you know, now what the hell is this? Ci siamo, la zuppa Campbell. Eccoci al punto cruciale dell'arte di Andy Warhol, l'elemento distintivo che lo trasforma da uno sconosciuto, anche se talentuoso, illustratore pubblicitario all'artista di portata mondiale che tutti conosciamo, ammirato dal mondo intero, oggetto di mostre, studi, libri, soprattutto indiscussa icona pop. Ma da dove arriva questa mania per i barattoli di zuppa Campbell? Come mai Andy, tra tutti i prodotti che può scegliere, si rivolge proprio a questo per attuare la sua rivoluzione? Lo spiega il suo fratello maggiore Paul. Nostra madre ci dava sempre la zuppa Campbell. Ne aveva sempre una buona scorta. Andy adorava quella di pollo con vermicelli e riso. E anche a New York, in questo malsano e particolare rapporto in cui la madre continua a alimentare l'infanzia di Andy, la madre gli prepara ancora la zuppa Campbell. Anzi, lui addirittura racconta di averla mangiata a pranzo tutti i giorni della sua vita. Per lui rappresenta l'archetipo del cibo, il simbolo del calore familiare, dell'amore materno, della sicurezza che si può mangiare, perché anche lui ha conosciuto la precarietà della vita, ha sofferto la fame, non ha avuto sempre la certezza del prossimo pasto. Bene, la ripetitività ossessiva con la quale dipinge lattine di zuppa e il numero incredibile di dipinti tutti uguali dello stesso formato che appende alle pareti del suo studio non sono solo l'espressione di questa nascente pop art che mostra la serialità dei prodotti di consumo, sono anche la rappresentazione del suo vissuto quotidiano. Dopo le lattine di zuppa, Andy inizia a dipingere con la stessa ossessione le bottigliette di Coca-Cola. Arthur Danto, che è professore di filosofia della Columbia University, vede in queste prime forme artistiche di Andy Warhol anche qualcos'altro. Era significativo a livello politico perché era qualcosa che tutti si potevano permettere. Cosa chiedere di più? Tutti potevano averla. Warhol era molto politicizzato, molto democratico. Il suo messaggio potrebbe essere: tutte le Coca-Cola sono uguali e tutte sono altrettanto buone. Anche se sei la regina d'Inghilterra, non puoi berne una migliore di un barbone. E questo è uno dei messaggi rivoluzionari e provocatori di Andy Warhol, cioè lui vede l'omologazione come un'occasione per tutti di poter fare la stessa vita, quindi un'occasione di democrazia. Finalmente nell'estate del 1962 Andy realizza la sua prima mostra personale alla Galleria Ferris di Los Angeles e anche se i critici inizialmente lo massacrano, la sua stella incomincia a brillare nel firmamento della nuova arte che si affaccia in quegli anni così rivoluzionari. È a questo punto che Andrew Warhol si trasforma in Andy Warhol, da brutto anatroccolo a sofisticato pittore moderno. Ricordandosi della sua passione di bambino per le stelle di Hollywood, Andy inizia a sostituire i prodotti di supermercato, le zuppe, le Coca-Cola, i detersivi, con i suoi attori preferiti, le icone della società americana. E questa è la grande provocazione. Anche con questi nuovi soggetti mantiene lo stesso stile artistico, la ripetizione ossessiva, l'uso di colori forti primari. Andy allude al lavoro dell'artista come macchina, inserito inserito nell'ingranaggio dello Star System e sicuramente influenzato dalle icone della Chiesa Cattolica dell'Europa dell'Est che frequenta con la madre. All'iconografia sacra aggiunge il glamour, inizia a rappresentare la religione americana così com'è, devota alle immagini affascinanti. Questo processo creativo arriva nell'agosto del 62. A una settimana dalla morte di Marilyn Monroe, Andy inizia a ritrarla ossessivamente, ripetitivamente, realizzando una delle sue opere più famose e apprezzate. Ormai la star è lui, il fulcro della New York che conta. Acclamato artista della nuova pop art, ma anche personaggio in continua evoluzione. Ogni festa non è una festa se verso la fine non arriva anche solo per 5 minuti Andy Warhol con la sua corte. Il suo passo successivo è quello di iniziare una produzione artistica su scala industriale. Sta per avere inizio una catena di montaggio degna della General Motors. Per fare questo stabilisce il suo quartiere generale in una caserma dei pompieri in disuso sulla 82esima che si chiama Factory. E questa è la vera rivoluzione. Con la Factory Andy dà il via a una produzione ancora diversa. Utilizza immagini di incidenti, assassini, sedi elettriche. Capovolge il senso della sua arte da interprete del bello a espressione del reale. Dal sogno americano si passa all'incubo americano. Il pubblico e i critici si schierano da una parte o dall'altra, ma lui è già avanti, è catapultato in una nuova realtà, il cinema. Tra il 63 e il 64 realizza una serie di pellicole minimali, Sleep, Kiss, Eat, Blowjob, Empire, che mostrano azioni ripetute, dilatate nel tempo, riprese con una telecamera fissa. Sono come quadri che invece di essere appesi sono proiettati su una parete bianca. Per realizzare queste produzioni Andy affitta una ex fabbrica di cappelli e la trasforma nella Silver Factory, che diventa rapidamente il posto dove andare a New York per essere filmati, fotografati, per incontrare personaggi stravaganti, per entrare nel magico mondo incantato, o se si vuole stregato, il magico mondo di Andy Warhol. E siamo nel 64, ricordate com'era l'Italia per esempio nel 64, era 50 anni indietro. Lui intanto se ne inventa un'altra, inizia a realizzare provini di gente famosa, lo fa naturalmente a modo suo. Ronald Travel, sceneggiatore di Warhol tra il 64 e il 66, ce li racconta così. Accendeva la telecamera e se ne andava. Non usciva dalla stanza, se ne andava proprio via. Lasciava addirittura l'edificio. 600 provini di personaggi del calibro di Salvador Dalì, Bob Dylan, Yoko Ono, Lou Reed, che per 3 minuti rimangono da soli in balia della telecamera fissa senza sapere cosa fare. Poi i provini sono pronti senza alcun tipo di intervento. Trovo il montaggio troppo stancante. Lascio che la telecamera funzioni finché non finisce la pellicola. Così posso guardare le persone per come sono veramente. Ma Andy Warhol sta per inventarsi una nuova professione. Diventa produttore e non sceglie un gruppo a caso. Sceglie i Velvet Underground di Lou Reed, John Cale, Nico, una delle più grandi novità della musica degli anni 60. Fecero un album di esordio, quello famoso, quello con la banana, disegnato ovviamente da Andy Warhol. Vendette poco, ma tutte le persone che comprarono quel disco misero in piedi una band. Andy, oltre a questa copertina, ha un'altra grande intuizione. Ai musicisti Velvet Underground affianca una modella che non aveva ancora cantato. Questa modella si chiama Nico, un giorno o l'altro ne voglio parlare, e diventa una altra icona della musica rock. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. ormai Andy Warhol è una leggenda vivente, si muove circondato da una corte di personaggi assurdi, incredibili. Molti di loro fanno una brutta fine, muoiono di overdose come la modella Edie Sedgwick, muoiono suicidi come l'attore Freddie Erco, perché la morte aleggia sulla Factory e si materializza per mano di Valerie Solanas, che è una scrittrice lesbica dalle idee radicali. Frequenta da tempo Andy e si convince che lui voglia rubarle l'idea per un film. Così il 3 giugno 1968, due giorni prima dell'assassinio di Bob Kennedy, Valerie entra alla sede della Factory per guadagnarsi il famoso quarto d'ora di celebrità. Vuole essere la donna che ha ucciso Andy Warhol. Billy Name, capo della Factory, racconta. I heard this loud bang. Udii uno scoppio. Quando uscii dalla camera oscura, Valerie era già andata. Andy era sul pavimento in una pozza di sangue. Corsi da lui e lo sollevai. Poi iniziai a piangere e singhiozzare. Ma lui mi disse di non farlo ridere, perché gli faceva troppo male. Valerie Solanas spara a Andy Warhol due colpi che gli attraversano sette organi interni, ma miracolosamente il fragile, pallido e diafano artista sopravvive e ironizza addirittura proprio mentre viene ferito. Avere visto la morte da vicino gli dà nuove energie e nel 69 a sorpresa fonda una rivista di cinema, Interview, che diventa un incredibile successo editoriale. Modifica anche ulteriormente la sua immagine, indossa parrucche bianche e nere che lui stesso acconcia e tinge, incrementa la sua attività di ritrattista di divi di Hollywood e anche di ricconi di New York. Tutta questa energia, questo grande trasformismo lo fanno sperimentare sempre nuove forme espressive, sconfinando anche nella letteratura, nel teatro, nella moda. Tutto questo si infrange contro una banalissima operazione alla Cistifellea il 22 febbraio 1987. Andy Warhol muore a solo 59 anni. Un segno indelebile, una serie di provocazioni e di riflessioni che hanno cambiato la storia dell'arte, della pop art e della rock art. Più colpo d'ala di così, ci sono persone che hanno saputo veramente volare in alto e sicuramente Andy Warhol è stato una di queste persone. Se volete mandarci i commenti o segnalarci altre storie, fatelo. Scriveteci al falcoilgabbiano@radio24.it o venite a cercarci sui nostri social e sul social del Falco e del Gabbiano. Ciao, a domani. Put the people in my brain, two new pens to have a go. And let you be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.